mattina, pulisciti la nasca da quella polverina. Invece di tagliare a cosa infilo una caitina e vieni con l'orre a fare l'esame dell'urina. Quando ti vedo vado di corpo, freddo non cedo, come se non ci sto. Mentre ti copri di ridicolo, quando controlli i documenti io ti dico: siamo re per i picciotti la putia, un buon nare la minchia rotta dalla polizia. Siamo re per i picciotti la putia, un buon nare la minchia rotta dalla polizia. Spero sulla gente che crede in tutto quel che fa, non sparo sulle folle in nome della libertà. E lotto come posso per far capire che la musica è il più bel messaggio di pace. Sì, lo so che non è tutto oro quel che luccica, non si può battere le mani per una frase stupida. È così che giocano sulla faccia della gente presa in giro da una sigla divertente. Copri di ridicolo, quando controlli i documenti io ti dico: siamo re che i picciotti la putia, un buon avere la minchia rotta dalla polizia. Siamo re che i picciotti la putia, un buon avere la minchia rotta dalla polizia. Un sincere amicizia con gli sbirri, chi poi c'è sarà cura come parri. Si pure un maresciallo colonnello, tanto si sa da che parte c'è il coltello. Un sincere amicizia con gli sbirri, chi poi c'è sarà cura come parri. Si pure un maresciallo colonnello, tanto si sa da che parte c'è il coltello.